Sura dell'abbondanza, capitolo 108 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 3 ayat ed è scesa dopo la sura 100, Al-Adiyat. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, in verità noi ti abbiamo dato il Kauthar, l'abbondanza di bene, perciò esegui il rito di adorazione del tuo Signore e immola vittime sacrificali. In verità, colui che ti diffama è mutilato.